America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, momento, devo dire, di grande emozione. Ieri sera al National Park, lo stadio di baseball di Washington, dove i deputati repubblicani e democratici hanno giocato la loro partita, quella partita per cui qualche giorno fa i repubblicani si allenavano e, ricorderete, c'è stata una sparatoria che poi ha colpito Steve Scalise. Un momento di grande emozione, denso di molti aspetti simbolici per un paese che resta spaccato, per un paese che ha subito una retorica molto aggressiva anche durante la campagna elettorale e che poi alla fine raccoglie i frutti di questa divisione in sparatorie casuali come quella di qualche giorno fa. Ma ieri non era il momento delle recriminazioni, era il momento dell'unità. Sentiamo. Questa è l'apertura, l'inno americano attorno al quale si sono raccolti i giocatori, ma si è raccolto soprattutto il pubblico dello stadio, un pubblico di decine di migliaia di persone. Non c'era mai stato un pubblico così numeroso, ci ha raccontato il senatore Sanford, e i giocatori, e dunque i parlamentari, erano poi sul campo, si sono raccolti in cerchio, si sono tenuti per mano, repubblicani, democratici, e c'è stato un momento di silenzio. Ma sentiamo una testimonianza diretta da ieri sera. We can agree to disagree, that's what debate's about, but we need to turn the tone down a little bit, and we can start right here, and maybe this is the day that gets it going. Ecco, questo è Roger Williams, deputato repubblicano del Texas. Ieri notte era alla partita e ha raccontato quello che è successo, perché lui era nel gruppo dei deputati che si allenavano mercoledì. Con lui c'era anche Zach Bart, un ragazzo che fa da assistente ai deputati. Ha raccontato questa storia drammatica, che a un certo punto si è sdraiato per terra, ha visto lo sparatore che gli puntava contro, lo ha colpito una gamba. A quel punto lui si è alzato, preso dall'adrenalina, è corso, si è buttato in questa buca dove si erano rifugiati gli altri deputati ed erano tutti lì insieme, e poi lo sparatore è stato ucciso. Ma avete sentito cosa ha detto Roger Williams? Ha detto: questo è il momento di riflettere, è il momento in cui dobbiamo recuperare un minimo di civiltà anche nel nostro dialogo. Non possiamo arrivare in Parlamento e non dialogare, ma semplicemente insultarci. We have gotten to a point in terms of breakdown of civility in our country that it's a problem. But when the president says to somebody in an audience, I wish I could hit you in the face, we ought to call it for what it is. That's a problem. Ecco, questo è Mark Sanford, repubblicano della Carolina del Sud, il quale dice: devo dire che una parte di questa retorica aggressiva l'ha costruita anche il presidente Donald Trump durante la campagna elettorale, perché se arriva a dire che vorrebbe prendere a pugni qualcuno, se coloro che vanno ai suoi comizi dicono che vogliono sparare, che vogliono vendicarsi e che vogliono aggredire la gente, questa retorica è cresciuta proprio perché c'è stata una campagna elettorale straordinariamente aggressiva. Quello che è successo, dice, deve riportarci all'unità. Speriamo che questo accada, perché il paese è scosso anche per gli scandali, per lo scandalo di Russiagate, per le ultime notizie che abbiamo avuto, e cioè che il procuratore speciale Robert Mueller abbia cominciato un'inchiesta, un'investigazione direttamente su Donald Trump per ostruzione della giustizia, cioè deve verificare se c'è stata o meno questa ostruzione della giustizia. Ricorderete che uno degli episodi chiave per portare all'ipotesi dell'ostruzione della giustizia è stato l'incontro che Donald Trump ha avuto con Jim Comey, ex capo dell'FBI, oggi ma allora era il capo dell'FBI, e Comey ha riferito che il presidente gli ha chiesto in qualche modo di lasciar perdere l'inchiesta sul Russiagate, soprattutto quella nei confronti di Flynn, di Mike Flynn, che era il capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Insomma, c'è una situazione tesa e drammatica, ma sentiamo le ultime notizie, perché oltre all'inchiesta su Trump, Mueller ha allargato il campo e ha messo sotto inchiesta anche Jared Kushner, il genero di Trump. Jared Kushner in particular obviously had meetings with Sergei Kislyak, the Russian ambassador, and also a meeting with the head Gorkov, the head of one of the top banks in Russia, a Putin insider. Ecco, qual è la storia che coinvolge Jared Kushner? Allora, si è incontrato Jared Kushner a dicembre, dunque quando il presidente era eletto, doveva semplicemente aspettare l'inaugurazione, dunque era in una fase di transizione. Washington si è incontrato con un banchiere russo che lavora con la Vnešnja Ekonombank, che è una delle banche russe che era sotto sanzione. Le banche americane, i business americani non potevano lavorare con questa banca perché le sanzioni che erano state imposte non solo dagli Stati Uniti ma da tutti gli alleati della NATO nei confronti della Russia per l'invasione della Crimea riguardavano appunto, fra le altre istituzioni economiche, anche questa banca. Dunque, come mai si è incontrato con questo banchiere, il signor Kushner? Allora, la storia è che il business immobiliare di Kushner non andava benissimo. C'è stato un acquisto per 1,8 miliardi di dollari di questo palazzo sulla Quinta Strada, un grattacielo sulla Quinta Strada, al numero 666 di Fifth Avenue, che faceva acqua un po' da tutte le parti. Dunque c'era un progetto per raccogliere liquidità e rilanciare questo affare immobiliare, addirittura demolendo il grattacielo per ricostruirne un altro molto più grande. E dunque Kushner era alla ricerca di capitali. C'è un'indiscrezione, tra l'altro, secondo la quale potrebbero esserci stati interessi anche da parte dei sauditi. Insomma, rischi di possibili conflitti di interesse. Su questo si indaga il contrasto tra questa atmosfera molto più amichevole, molto più costruttiva che abbiamo visto ieri sera durante la partita di baseball e quello che poi sta capitando nel giorno per giorno, ora per ora, colpisce. E Trump che dice? Sentiamolo. Well, I respect the move, but the entire thing has been a witch hunt, and there is no collusion between certainly myself and my campaign and the Russians. Zero. Come al solito contrattacca, ci sono molti che gli danno ragione, dicono che c'è in effetti, come dice Trump, una caccia alle streghe. Il presidente dice tutta questa storia non è altro che una caccia alle streghe, non c'è alcuna collusione fra me, i membri della mia campagna elettorale e la Russia. È la più grande caccia alle streghe della storia politica americana, condotta da persone malvagie. Trump cerca di distogliere l'attenzione perché oggi, più tardi, farà un annuncio, annunzierà delle misure che faranno marcia indietro nei confronti dei rapporti con Cuba. E sarà questa una decisione che alimenterà polemiche, perché poi alla fine la storia a un certo punto la si deve chiudere. Barack Obama l'aveva chiusa, poteva lasciar perdere il capitolo Cuba, invece lo riapre creando nuove polemiche, nuove tensioni, cosa di cui l'America oggi non ha bisogno. Ha bisogno invece di una marcia verso l'unità, verso la serenità, proprio come quella che abbiamo visto ieri sera allo stadio National Parks di Washington. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Credo che sia importante fare un passo indietro. Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, uno dei temi del film The Graduate, il laureato, canzone bellissima, dove si parla di Joe DiMaggio, il grande giocatore di baseball, il grande eroe, la grande leggenda del baseball americano, e il verso in particolare dice, poi lo ascolterete: Where have you gone, Joe DiMaggio? Dove sei sparito, Joe DiMaggio? Già allora l'America credeva di essere in crisi, mai avrebbe immaginato di arrivare dove è arrivata oggi. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!